Incontri di Gianfranco Fabi. La musica, la voce degli O2, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Florindo Rubettino. Buonasera. Florindo Rubettino, presidente della casa editrice che porta il suo nome, ma innanzitutto perché gli O2, che cosa li ricorda? Beh, sono un cresciuto negli anni Ottanta, gli O2 erano un po' il mito della nostra generazione, sono anche secondo me l'icona di quegli anni Ottanta che abbiamo tanto bistrattato e di cui oggi forse cominciamo forse a rivalutare. Abbiamo un po' di nostalgia, eravamo tutti un po' più giovani. Sì, ma al di là di quello credo che gli anni Ottanta abbiano rappresentato un decennio importante anche di crescita e anche di cambiamento di alcuni miti, di alcune icone che insomma venivano dagli anni 70 e credo che oggi vadano rivalutati. Indubbiamente, miti, valori e anche passioni per le cose, insomma, che poi si sono un po' rovinate anche un po' col tempo. Ma guardiamo un po' alla casa editrice Rubettino, quando è nata? Rubettino è nata nel 72, nata per opera di mio padre che aveva in mente di far libri. La sua era una passione innata, non aveva alcuna idea di come si facessero i libri, però aveva questa appunto ambizione, passione, così dal nulla, senza avere intorno a sé persone, capitali, certo, e cultura per farlo. Ecco, è un'ambizione diciamo un po' temeraria, soprattutto poi perché ha voluto farla non nel centro dell'editoria nazionale o mondiale che può essere Milano, ma l'ha fatta dove? L'ha fatta in Calabria, in un piccolo centro della Calabria, tra le montagne della Sila, in un appunto luogo dove insomma qualunque persona sana di mente non avrebbe mai immaginato che si potesse costruire infatti un'impresa, quindi una realtà imprenditoriale e per di più una realtà di imprenditoria culturale. Quindi suo padre, Rosario Rubettino, ha creato questa impresa che è cresciuta rapidamente in quegli anni, si è un po' affermata attraverso anche una logica editoriale originale, un po' al di là dei conformismi dell'editoria, diciamo, ha seguito anche alcune strade che potremmo chiamare ideologiche, ma sono soprattutto delle scuole di pensiero. Sì, ha seguito una strada poco battuta dalla grande editoria italiana e dalle scuole di pensiero che hanno, certo, sempre dominato anche nell'editoria e nella cultura italiana. Ha seguito la strada di innovare, proponendo al mercato italiano, ai lettori italiani, un filone in particolare, che è il filone del pensiero la grande tradizione di pensiero liberale europeo, ma anche mondiale, in particolare la scuola austriaca di economia e scienze sociali di autori come Hayek, Mises, Popper, che in Italia avevano scarsa visibilità e non avevano appunto asilo proprio perché c'era una predominanza di un certo orientamento culturale che in qualche modo aveva impedito che queste idee si propagassero. Rubettino in questo spazio ha coperto questo spazio e devo dire che a distanza di anni da quando insomma abbiamo intrapreso questa strada ci rendiamo conto anche di aver inciso un po'. Certo, questo anche valutando, rivalutando e portando alla ribalta l'opera di filosofi italiani come Dario Antiseri, come Lorenzo Infantino, che hanno dedicato proprio la loro vita anche a portare alla ribalta appunto queste tesi che erano un po' dimenticate, sacrificate per una certa, diciamo così, per un certo pregiudizio ideologico. Sì, è proprio grazie a loro, in particolare a Dario Antiseri e Lorenzo Infantino, che insomma questi autori sono entrati nel dibattito italiano. Il paradosso è che opere importanti di Mises, di Hayek, sono apparse per la prima volta in Italia negli anni 90, mentre sono opere pubblicate per la prima volta alcune negli anni 20, certo, e che hanno circolato in tutta Europa. Dei classici dell'economia, del pensiero economico, che sono stati appunto lasciati ai margini del dibattito culturale italiano. Cosa avete in progetto, cosa avete in stampa, diciamo, in questa estate? Quale libro consiglierebbe come lettura estiva delle edizioni di Rubettino? Beh, come lettura estiva, intanto noi abbiamo da poco inaugurato una collana di narrativa che ci sta dando delle grandi soddisfazioni, in particolare grazie ad alcuni autori, quali Gioacchino Criaco, che si è imposto anche grazie al successo del film Anime Nere, tratto da un nostro libro, Stefano Marelli, un'altra grande nostra scoperta, scrittore ticinese, e anche Mimmo Gangemico, un altro narratore che ha una voce importante nel panorama italiano. Poi abbiamo un bel libro di Andrea Carandini, archeologo, presidente del FAI, che ha scritto un libro non nel suo campo solito, che è di specialità di archeologia, ma ha scritto un bel libro divulgativo su Isaia Berlin, quindi anche qui siamo nella tradizione del pensiero. Del pensiero filosofico, del pensiero sociale, indubbiamente. Poi pubblicheremo anche qui un bel libro di alta divulgazione di Gilberto Corbellini e Luca Pani sulle imperfezioni umane. Beh, quindi sempre a livello scientifico, però libri appunto che cercano di animare anche la discussione politica e un po' quello che ci vuole, un po' l'anima culturale di questo paese che ha bisogno un po' di essere scosso. Come va il mercato dei libri in questo momento? Ma il mercato dei libri in questo momento non gode di grandissima salute, nel senso che veniamo da un po' di anni che hanno registrato il segno meno, anche il 2014 si è chiuso con un meno 7% rispetto all'anno precedente. I dati del 2015 sembrerebbero dimostrare che l'emorragia, la caduta, sembrerebbe essere finita, nel senso che sono stabili, quindi questo in un mercato così tempestoso potrebbe essere interpretato anche come un segno positivo. Per quanto riguarda noi direttamente, in questa cornice di grandi difficoltà, il 2014 siamo cresciuti un po', il 2015 segna ancora un segno più, quindi seppur se parliamo di cifre di più 1 o più 2%, però credo siano da apprezzare, in particolare in questo momento. Ecco, che realtà è Rubettino? Quante persone coinvolge nella sua? Sì, Rubettino è una realtà industriale ed editoriale. Quando dico industriale perché c'è attorno alla casa editrice Rubettino anche un grande impianto di stampa che insomma produce libri non solo per la casa editrice Rubettino ma per altri importanti editori e per altri importanti committenti, che occupa circa 80 persone, mentre poi la realtà editoriale occupa 15 persone, quindi siamo una media azienda di quelle che fanno il tessuto imprenditoriale. Ricordiamolo, ha sede a Soveria Mannelli, che è un piccolo paese della Sila, quindi un po' più a nord rispetto all'Aspromonte, ma e quindi non è un po' isolato dal resto del mondo. Sì, esattamente così, la scommessa è proprio quella. Io credo che la storia di Rubettino, ma ce ne sono tantissime storie di questo tipo, se solo si ha, come dire, la curiosità di andare a cercarle, sia anche la dimostrazione che a volte le barriere, gli ostacoli sono prima di tutto degli ostacoli di natura psicologica o mentale, culturale, diciamo così. Io credo che al di là delle ovvie e naturali difficoltà che si hanno, certo, nel fare impresa culturale in un luogo che non è sicuramente ai crocevia culturali e imprenditoriali, però credo che allo stesso tempo sia la dimostrazione che con tanta buona volontà, che con tanta passione, e provando anche a capovolgere quelle che sono le barriere in opportunità, si possa comunque dimostrare che comunque si può fare i libri vanno trasportati in qualche modo. Lì c'è quella certa autostrada Salerno-Reggio Calabria in cui solo evocare il nome sembra un po' l'emblema dell'inefficienza italiana. Sì, esattamente così, però non ci sono alternative. L'alternativa sarebbe quella della paralisi, di star fermi, invece bisogna sfidarle queste difficoltà. Sfidare anche una realtà del Mezzogiorno, di cui parleremo nella seconda parte, perché appunto Rubettino è una realtà imprenditoriale che dimostra come nel Mezzogiorno sia possibile fare delle cose positive, delle cose che animano non solo il mercato culturale ma anche il sistema economico. Ma restate con noi, ci fermiamo un attimo, continueremo tra poco la nostra conversazione con Florindo Rubettino. Incontri. ancora con U2, con Pride and the Naval Love, iniziamo, no, riprendiamo il nostro incontro con Florindo Rubettino, presidente della casa editrice Rubettino. Abbiamo parlato nella prima parte di questa avventura editoriale iniziata negli anni 70 da suo padre Rosario Rubettino e poi presa in mano appunto da Florindo in questi ultimi anni, una casa editrice che ha sede a Soveria Mannelli sulle montagne della Sila e quindi in una realtà che sembra un po' isolata fuori dal mondo, ma che è riuscita comunque a farsi avanti, a diventare una realtà imprenditoriale oltre che editoriale, anche seguendo appunto alcuni filoni di pensiero, per esempio portando in Italia la scuola austriaca di economia, i libri di Mises, di Hayek, che erano poco conosciuti e che appunto grazie anche all'opera, abbiamo ricordato, di Dario Antiseri, di Lorenzo Infantino, sono stati tradotti e pubblicati proprio da Rubettino. Allora, Florindo Rubettino, abbiamo parlato un po' della Calabria, dei filoni di pensiero in cui si è mossa la casa editrice, sia con suo padre prima, sia con lei adesso, che ha continuato quest'opera. Ecco, un filone è anche quello meridionale, non può che essere quello meridionale. C'è un'attenzione alla realtà del Mezzogiorno. Sì, c'è un'attenzione particolare al Mezzogiorno, perché appunto siamo una casa editrice che opera nel Mezzogiorno, quindi crediamo sia importante dare il nostro contributo anche su un punto, su una questione che merita sempre l'attenzione, sulla quale molto spesso i riflettori si spengono. Lo facciamo sia attraverso tutta una serie di opere che si occupano appunto del divario nord-sud, sia in termini storici che in termini di analisi economica e sociologica. E lo facciamo soprattutto anche attraverso una grande attenzione a quello che è un fenomeno che purtroppo è tipico del Mezzogiorno, anche se ora ormai è diventato fenomeno da esportazione, che è la criminalità. Noi fin dall'inizio della nostra attività abbiamo dedicato grande attenzione a questo tema, pubblicando opere di appunto studiosi di tutte le discipline che come dire, in qualche modo hanno cercato di approfondire le ragioni di questa specificità del Mezzogiorno. L'abbiamo fatto in tempi in cui non era semplice farlo. I nostri primi libri sull'Ndrangheta risalgono alla fine degli anni Ottanta, quando di Ndrangheta si parlava poco e quando in pochi avevano il coraggio di pubblicare libri che insomma parlassero apertamente di Ndrangheta o che addirittura mettevano le cartine geografiche della ripartizione criminale. Non è stato facile. Non è stato facile anche perché insomma operando lì è ovvio che qualche rischio ce lo siamo presi. Poi oggi è diventato anche un fenomeno editoriale parlare di criminalità, parlare di mafie, però io credo che l'attenzione su questo tema debba rimanere alto. Quanto al Mezzogiorno, io credo che il Mezzogiorno siamo ancora in tempo perché il Mezzogiorno abbia una chance importante. Quello che secondo me va rivisto il concetto stesso. Anche nella terminologia, quando si parla di sud si parla di divario, di ritardo, quasi a voler indicare il fatto che il sud debba rincorrere il resto del paese. Ora, secondo me il problema è che rincorrere un paese che tutto sommato è fermo non ha molto senso. Io credo che la chance per il Mezzogiorno debba essere non quella di rincorrere e allinearsi al resto del paese, ma sia quella di fare altro rispetto al paese, di diventare quello che il paese non è mai stato, essere appunto liberale, aperto, innovativo, plurale, poliarchico, quindi una sorta di laboratorio di quello che l'Italia non è mai stato. Il sud potrebbe farlo questo perché ha le energie, ha la cultura, ha una serie di asset, la cultura è saper fare, artigianale, una partita tutta da giocare sull'energia, sul Mediterraneo. Se solo scardinasse tutto ciò che impedisce, che fa da tappo a queste cose e diventasse un laboratorio innovativo. Ma visto dal sud, visto dal suo osservatorio, qualcosa si sta muovendo in questo senso. E le iniziative, ci sono sicuramente iniziative positive, ma sono ancora forse sporadiche, sono ancora poco collegate, c'è ancora non dico un'ostilità, ma un'indifferenza dell'ambiente esterno. Ci sono due mezzogiorni purtroppo, c'è un mezzogiorno che cerca di ribellarsi con tutte le forze a questi condizionamenti che vengono dal modo di essere della politica, dalla criminalità e da tutto il resto, e che lo fa appunto guardando al mercato, guardando all'innovazione, guardando al mondo, e c'è un pezzo di mezzogiorno che tiene insieme gran parte della politica, una buona parte di imprenditori che con la politica fanno affari, è tutto un mondo che vive di rendite, di acquiescenza rispetto a questa cosa, e che purtroppo fa da tappo. Purtroppo la gran parte di Mezzogiorno tende verso questo modello. Fin quando non si capirà che il modello cui tendere è l'altro, credo che non sarà facile. C'è stato forse molto assistenzialismo in passato e questo ha abituato un po' a dipendere dall'assistenzialismo, però il problema è anche che ridurre l'assistenzialismo si creano poi dei problemi sociali, quindi uscire da questa prospettiva ci vuole forse una generazione di giovani che prenda in mano questo problema. Molti giovani però vanno all'estero o vanno al nord, adesso c'è ancora questa realtà di giovani che cercano altrove una prospettiva e probabilmente la trovano anche perché sanno difendersi, ma per dare più forza alla realtà meridionale certamente ricette facili non ce n'è, bisogna crederci. Beh, bisogna crederci e bisogna capire che una gran parte della responsabilità di tutto ciò è della politica. La politica finora ha continuato in questa prospettiva appunto dell'assistenza, perché chiaramente l'assistenza, l'aiuto genera dipendenza e la dipendenza ovviamente fa bene a chi fa politica. Purtroppo noi abbiamo due soli modi per manifestare la nostra insoddisfazione: quello di votare contro oppure quello di andare via. Molto spesso si sceglie la strada dell'andare via, come diceva lei, i migliori, i più bravi non sono al Mezzogiorno, quindi questo comporta un depauperamento delle energie meridionali, però soprattutto è un voto contro chi governa, e questo gli amministratori dovrebbero capirlo e dovrebbero viverlo come un loro dramma interno. Anche perché i giovani dovrebbero anche impegnarsi in politica, forse anche la politica crea delle barriere su questo fronte, l'impegno proprio dei giovani è un impegno più serio, più saggio, più originale verso sì, la politica. Fin quando in politica si entrerà solo per cooptazione, certo, è chiaro che questo rinnovamento di energie non sarà semplicissimo. Ecco, ma vorrei andare verso la conclusione tornando a parlare di mercato editoriale, di politiche editoriali. Ecco, che influenza stanno avendo gli ebook, i libri elettronici, la prospettiva appunto di dematerializzare il libro, magari anche di risolvere il problema dei trasporti dei libri da Soveria Bannelli verso le librerie o verso appunto direttamente verso chi legge i libri. Che spazio hanno adesso gli ebook? Qual è la vostra strategia in questo settore? Beh, la sfida del digitale per ogni editore è una sfida importante, anche molto bella da intraprendere. Ovviamente il digitale ha tanti vantaggi, la possibilità di fruire in maniera più veloce, rapida i contenuti, quindi per un editore la materia, insomma l'oggetto, il proprio prodotto è il contenuto, quindi alla fine diventa abbastanza irrilevante se questo contenuto viaggia su carta o viaggia in digitale. Io quello che vedo nel prossimo futuro è una forte integrazione tra il cartaceo e il digitale. Primo perché insomma la storia della comunicazione ci insegna sempre che i vari media si rafforzano, certo, tra di loro piuttosto che cannibalizzarsi l'un l'altro, e poi perché appunto credo che ci siano pregi sia nella carta che nel digitale. Il libro è anche e soprattutto un oggetto, e chiaramente la dimensione materiale dell'oggetto la può dare solo la carta, non può darlo il digitale. Dico questo giusto per dire uno dei grandi vantaggi del libro. Oggi che si parla di importanza del design, del prodotto, della qualità dei materiali, è chiaro che questa è una sfida che la carta deve sicuramente... È anche un oggetto d'arredamento spesso, sì, è anche qualcosa di bello da vedere. Ecco, questo però vale forse per le generazioni dell'età di mezzo o dell'età più anziana. I giovani forse non hanno questa sensibilità verso la bellezza, hanno più la sensibilità verso il virtuale. Sì, è probabile che si riconfigureranno i confini dei vari prodotti, però io sono convinto che il libro di carta abbia ancora una grande partita da giocare. E quindi puntate su questo e anche sul fatto comunque i vostri libri sono anche in digitale. Beh, naturalmente noi stiamo portando avanti anche la politica digitale, ovviamente i nostri libri sono tutti in ebook, ma non solo, abbiamo tanti progetti digitali, uno per esempio una piattaforma che si chiama Biblioteca Liberale, dove abbiamo fatto confluire tutte le nostre pubblicazioni che rappresentano poi alla fine il catalogo più importante sul liberalismo in Italia, che è una piattaforma con delle funzionalità innovative, soprattutto nel campo della ricerca, quindi è un utilissimo strumento per chi debba fare ricerche e studi su quelle tematiche. Abbiamo pronte per il lancio altre due piattaforme, una che è una sorta di digital library che sostanzialmente consentirà di disaggregare e riaggregare i nostri contenuti seguendo dei filoni tematici, quindi la possibilità di costruirsi dei libri andando a destrutturare pezzi di nostri libri rispetto a quella che è la propria a quelli che sono i propri interessi. E un'altra piattaforma che partirà entro l'anno, che è una interessante piattaforma di e-commerce che mette insieme il libro e alcuni prodotti agroalimentari, quindi anche qui delle connessioni di significati tra contenuto e appunto prodotto enogastronomico. Ecco, il libro può diventare virtuale, un bel piatto di spaghetti probabilmente no. Sicuramente no. E quindi anche in questo forse un sostegno reciproco a mantenere le cose nella loro concretezza c'è. Un augurio per concludere per il futuro visto dal centro della Calabria. Beh, io spero che insomma i libri abbiano sempre continuino a svolgere il loro ruolo, soprattutto per interpretare un periodo complicato come il nostro, dalle grandi sfide sia geopolitiche sia economiche, e che possano continuare a rappresentare un po' un punto di riferimento tutte le volte in cui ci si sente disorientati rispetto alla complessità. Certo. Leggere fa bene, leggere cose buone e sagge fa ancora meglio. Grazie. Certo. Grazie. Grazie a Florindo Gobettino, presidente della casa editrice Gobettino di Soveria Mannelli in Calabria, di essere stato con noi questa sera. Ringrazio anche Pietro Bescapè in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora per quanto resta. Buona domenica.